Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio dalla Fiera del Libro di Torino. Come anticipato fin da ieri, l'appuntamento odierno è dedicato alla lettura. Alla lettura colta, direi, sia pur mixata con qualche spruzzo di attualità, a cominciare ovviamente dalla vittoria strenua della Lazio in Coppa Italia e dalle voci della felicità. Ne abbiamo tante da farvi ascoltare oggi, poi nel corso della trasmissione, anche qualcuna ovviamente meno felice, perché in una finale sapete che c'è qualcuno che esulta e qualcuno meno. Io direi di sentirne subito una, in attesa di introdurvi, di presentarvi il primo ospite di oggi qui alla Fiera del Libro, che è già seduto innanzi a me. Sentiamo l'artefice, direi, principale di questa vittoria, che per una volta forse non è l'allenatore, per bravo che sia stato durante la stagione, ma è il portiere Muslera. Un'allegria incredibile, non ci meritavamo questo, abbiamo fatto benissimo in tutta questa Coppa e meritavamo di vincerla. Oggi è stata una partita molto difficile, però hanno fatto fino alla fine quello che hanno potuto fare. E vabbè, i rigori sono come sono, mi ha toccato parare due, abbiamo fatti tutti, è quello che fa piacere. Con il tempo uno migliora, lavora, è quello che vuole giocare, quindi io sto tranquillo, sto contento che mi sono ripreso, prima di tutto per la mia famiglia, che stanno tutti soffrendo in Uruguay, che è molto lontano. Una rivincita in piena regola, quella di Muslera, ma in generale dei portieri della Lazio, che insomma durante l'anno, e non soltanto questo, qualche problemino l'hanno avuto e l'hanno creato i tifosi. Vi dicevo del primo ospite di oggi, che è un autore di Mondadori, che ha da raccontarci, ha appena scritto Solo per Giustizia, un libro uscito per Strade Blu di Mondadori, e ha da raccontarci da una parte una storia terribile e dall'altra, essendo questo un programma sportivo, ha da raccontarci anche come è riuscito a coltivare nel frattempo la sua passione per lo sport, in particolare per il calcio e molto più in particolare per il Napoli. Benvenuto Raffaele Cantone, buongiorno. Grazie, buongiorno a lei. Buongiorno. Intanto so che, le dirò che un minimo di suggestione e l'imbarazzo comunque a vedere arrivare in uno stand di Radio 24, in una Fiera del Libro e per un programma sportivo, vedere arrivare una persona sotto scorta, un minimo di non so come definirlo. Mi dica lei cosa rappresenta e cosa significa, visto che ha raccontato in questo libro il disagio e le sofferenze di questi anni. Ma io prima di tutto non ritengo che si tratti di un disagio e di una sofferenza. Io ho sempre pensato che lo Stato, nel momento in cui mette a disposizione uomini, mezzi per tutelarmi, io non posso considerarlo un disagio, sarebbe un di più. Mi ha consentito nel corso degli anni di lavorare con tranquillità, ovviamente ha limitato la mia privacy, ma io ne ho sempre visto l'aspetto positivo, cioè quello della possibilità di lavorare con tranquillità. E poi io ho avuto il privilegio di aver avuto ragazzi della scorta della Guardia di Finanza, che erano ragazzi eccezionali, con i quali siamo ormai diventati sostanzialmente amici. Gliene ho presentato uno che è tifosissimo del Torino, con cui parliamo di calcio, parliamo d'altro. Quindi tutto sommato mi lamento davvero poco. Vi dirò che questo ragazzo mi ha anche confidato che se potesse, da tifoso del Torino, in vista di Napoli-Torino domenica, cercare di ammorbidire attraverso di lei il Napoli, sarebbe molto felice. Cominciamo dalle cose serie. Dunque, lei è stato sostituto procuratore a Napoli, 10 anni da direzione distrettuale antimafia, attualmente magistrato presso il massimario della Cassazione. Diciamo che se casalesi, insomma, se questi clan, se questa delinquenza così radicata in quel territorio ha subito dei colpi in questi anni, insomma, forse lo si deve in particolare a persone come lei. Sì, a persone come me, ma anche a tanti altri. Io nel libro ci ho tenuto a evidenziare come questo sia soprattutto un lavoro di squadra, come ci siano tante persone che non hanno la visibilità di noi magistrati, ma che sono fondamentali. Io li ho definiti la spina dorsale del paese, tanti carabinieri, poliziotti, finanzieri, che lavorano in silenzio, senza attendersi null'altro che spesso un grazie, spesso senza neanche avere le condizioni ottimali dal punto di vista economico. Io credo che bisogna dare atto che se piccoli risultati sono stati raggiunti è stato grazie soprattutto a un lavoro di squadra. In questo lavoro di squadra mi pare ci sia stato da parte sua ad un certo punto anche la scoperta di un progetto per eliminare Roberto Saviano. Lo dico perché oltretutto parlando di Mondadori, parlando di Strade Blu, parlando di un suo libro su questo argomento, beh, insomma, il successo che Roberto Saviano ha avuto e la forza che quel libro la forza di quel libro nel denunciare questa cosa al mondo e non soltanto al paese, direi che ha fatto epoca ormai. Ma io credo che si possa paradossalmente distinguere un prima e dopo Gomorra, nel senso che è evidente che Roberto ha raccolto il lavoro che veniva già indagini giudiziarie precedenti, quindi per gli addetti ai lavori era un fenomeno ovviamente noto, ma soltanto per gli addetti ai lavori. Gomorra invece ha avuto la capacità di sdoganare questo fenomeno, di renderlo noto a tutti, di renderlo comprensibile, di far capire che la camorra non era meno pericolosa della mafia, e non bisogna fare la storia dei polli di Renzo, chi è più pericoloso e chi certo, è meno pericolosa, certo, ma che soprattutto aveva una grande capacità di infestare la società e l'economia. E dopo Gomorra io credo che le indagini non sono state più le stesse, perché l'attenzione mediatica, la conoscenza da parte dell'opinione pubblica ha avuto anche degli effetti molto positivi sul piano investigativo. Credo ovviamente che, spero che poi l'attenzione resti e che non sia il solito fenomeno così che duri lo spazio di una giornata. Magari, questo è sempre una speranza. Le indagini, leggo nel risvolto di copertina, le scoperte sempre più approfondite e pericolose, le persone per bene con cui lei ha lavorato, le persone disoneste che hanno cercato di ostacolarlo, ma anche di eliminarlo. Questo universo quotidiano sfuggente fatto di mille rischi. Ma un universo molto complesso che è difficile anche da capire per noi, non solo addetti ai lavori, ma per noi che veniamo dalla zona, perché la criminalità organizzata non fonda la sua forza sulla violenza, ma fonda la sua forza sul consenso, ed è un consenso che tu riscopri essere in grado di avvinghiare non soltanto le persone che fanno parte di quel mondo, ma anche tanta gente che dovrebbe essere per bene. Quella zona grigia che rappresenta la vera forza della criminalità organizzata e che rende tutto più complicato, tutto meno chiaro, tutto più complesso. E quindi tante storie di tante persone, alcune che avevano scelto la parte giusta, ma altre che tu hai ritrovato per strada convinto che fossero dalla parte giusta e invece erano dalla parte sbagliata, uomini delle istituzioni, uomini dell'imprenditoria, politici, forze dell'ordine, un po' di tutto, che io credo è la vera forza della camorra. Certo. Ed è quello che rende così difficile il vostro lavoro. Io so che nei ritagli, ogni tanto, o negli spostamenti, lei è anche un ascoltatore di Radio 24. Sì, io ascolto soprattutto in serale, soprattutto quando torno da Roma, ascolto spessissimo il programma La Zanzara, ma poi lo ascolto anche durante il resto della giornata, diciamo. Mi piace il giusto mix che c'è fra informazione, musica, ma soprattutto un livello di informazione che mi dà l'idea di professionalità, un'informazione che io trovo seria, ecco, la parola adatta è questa. Siamo riusciti a, non dico a estorcere, ma insomma giurare addirittura un promo ad un magistrato scrittore come Raffaele Cantone. Il Napoli, allora io partirei da qua. Il Napoli di quest'anno è andato fin troppo, ha vissuto al di sopra delle proprie risorse prima, o sta vivendo al di sotto delle proprie risorse adesso? Prima di tutto ci tengo a dire che io sono un tifoso di vecchissima data. Io ricordo che durante il periodo del liceo o anche i primi anni di università io ero un abbonato della Curva A, prima di Maradona. Prima di Maradona. Poi ho continuato a vederlo con Maradona, anche se era molto più complicato. L'ho un po' lasciato durante il periodo, diciamo, dell'impegno professionale, continuandolo a seguire soprattutto grazie alla TV. E adesso ho ripreso ogni tanto andare allo stadio, ma comunque lo seguo praticamente sempre. La mia idea è che siamo stati fortunati a partire bene, perché per fortuna abbiamo fatto i punti e ci siamo salvati. Io sono molto realista perché le ultime prestazioni del periodo Rea, che secondo me è un allenatore che ha lasciato un segno molto positivo, dimostravano che era una squadra che ormai aveva serissimi problemi e che anche il cambio in corsa con Donadoni non è riuscito ad eliminare i problemi del Napoli, che soprattutto sotto il profilo del gioco lascia molto a desiderare. Oggettivamente direi di sì. Io andrei avanti un bel po' a chiacchierare con lei, caro Cantone. Il problema è che ho discreti cenni al di fuori del box, sì, di Radio 24, non tanto alla scorta per fortuna, no, da una signora che deve, di Mondadori, che deve pilotarla a un incontro, sì, mi pare, con il procuratore Caselli. Sì, con Giancarlo Caselli, che mi ha fatto l'onore di venire a presentare il mio libro, e questa è veramente una bellissima cosa. Beh, per chi ci sta ascoltando dal salone o dai dintorni del salone, in sala gialla, tra pochi minuti va in onda questo confronto tra il procuratore Giancarlo Caselli e Raffaele Cantone, che ringrazio per essere stato con noi. Ringrazio voi di avermi invitato. Grazie, buon lavoro, buon a lavoro lei, da arrivederci. Noi torniamo alla nostra più spiccia attualità. Con che cosa? Ma per esempio con altri echi della finale di ieri sera. Sentiamo ancora una voce di quelle felici, poi avremo tempo di passare alla sponda sampdoriana e a quelle, evidentemente, alle delusioni. Sentiamo Delio Rossi prima. Soprattutto per questa gente, penso che sia giusto per i ragazzi, un anno di sacrifici, giocarsi tutta una partita. Sono contento. C'è anche più sofferenza. Significa passione per il proprio lavoro e uno che da tanto vuole ottenere anche dei risultati. Se ne sentite dire di tutti i colori quest'anno degli Rossi, vi dicevo prima dei portieri della Lazio, è stata indubbiamente una squadra che ha avuto un rendimento altalenante per l'intera stagione, però quando poi si festeggia una Coppa Italia che rimane pur sempre il secondo trofeo per importanza, visto che ce n'è due, no? in ambito nazionale, beh, insomma, tanto si va in bacheca, si va nell'Albo d'Oro, si vive una serata di grandi emozioni, di grandi festeggiamenti come ieri, e il bilancio di una stagione diventa automaticamente positivo, io credo. È successo in passato per squadre di pretese e di caratura superiore alla Lazio, a maggior ragione credo che abbia tutto diritto di festeggiare in questo momento per aver dato un senso intero alla stagione la Lazio, così come sarebbe stato per la Sampdoria se la cosiddetta lotteria finale fosse girata diversamente. Rieccoci in onda in vostra compagnia, tra poco i primi interventi in diretta. Spero abbiate apprezzato quello di Raffaele Cantone, e vi ricordo il titolo del libro, che si chiama Solo per giustizia, edito da Mondadori nella collana Strade Blu Narrativa. Però abbiate apprezzato questo intervento, insomma, che serve anche a orientare le scelte. Oggi parleremo di molti libri, visto che siamo qua alla fiera di Torino. Sono consigli assolutamente spassionati per riempire il tempo libero, e non necessariamente sempre con libri sportivi, anche se poi mi piacerà suggerirne qualcuno, anche se in uno stand non lontano dal nostro si vede un poster, un grande poster di José Altafini, che suggerisce football e allegria, no? Nella sua lingua portoghese, brasiliana di origine. Ancora una voce felice da ieri sera, e un altro che certamente merita questa soddisfazione e la ribalta, e cioè il presidente Lotito. Ma è una grande soddisfazione soprattutto per la squadra che si è impegnata. Sono 4 anni e noi stiamo attuando un progetto dove vivono più i valori, vincono più i valori, i sacrifici, la professionalità rispetto all'interesse economico. Ecco, oggi è il coronamento di un progetto, perché significa che si possono raggiungere meri obiettivi indipendentemente dall'interesse materiale. Per Delio Rossi, per la squadra, ma soprattutto per tutti i tifosi che, avete visto, ci hanno accolto con grande calore, ci hanno sostenuto per tutta la partita, anche nei momenti di difficoltà. Quindi voglio dire, è una ricompensa per tutti coloro che vivono con passione e con grande sentimento l'attaccamento a questa squadra e a questi colori. Il primo ascoltatore di oggi da Bologna ha chiamato Stefano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, mi sente bene? Certo. Senta, io non sono riuscito a parlare con lei lunedì per ragioni di congestionamento di messaggi, insomma. Sì. L'ho chiamata per riconoscerle una obiettività di rilievo riguardo i suoi commenti sulla partita tra il Bologna e il Torino, giocata il 10 maggio. E un'obiettività di rilievo perché non tutti i suoi colleghi, tra carta stampata e televisione, sono stati così obiettivi, ecco. Quello, cioè, l'episodio del rigore per il Torino e l'altra sulla eventuale espulsione di Calderoni. Sono episodi su cui non voglio tornare perché se ne è già parlato direi abbastanza. Quello su cui invece vorrei porre l'accento in maniera molto sintetica è la componente che spesso non si sottolinea, cioè come pesano le ammonizioni su una singola partita, soprattutto in queste sfide salvezza, e sul proseguo del campionato. Il Bologna ha avuto all'Olimpico di Torino 6 ammoniti contro i 3 del Torino e con la Regina, in una sfida ugualmente difficile, 3 ammoniti fino al loro raddoppio, di cui 2 diffidati che hanno saltato la partita col Torino. Sono componenti che fanno venire, lei dice, spesso si è autorizzati ad avere dubbi, con un'espressione molto eufemistica. Non mi faccia dire le cose che non ho detto. Io non ho affatto parlato di ammonizioni, ho parlato di un episodio, ne ho parlato 3 giorni fa, mi sembra che è stato lei il primo a dire che è un argomento morto e sepolto, se vogliamo comportarci in maniera civile, se poi invece vogliamo fare gli arruffa popolo possiamo andare avanti a oltranza finché ci pare. Di quello ho parlato, non certamente di ammoniti e non di cattivi pensieri legati alle ammonizioni. Io ho detto quello su cui non si pone l'accento. Lei ha parlato obiettivamente degli episodi dei rigori e va bene, ed è quello un argomento morto e sepolto. Sono stato forse frainteso. Quello su cui la stampa, spesso la televisione, cioè i media, non pongono l'accento sono le ammonizioni che condizionano i giocatori e le partite in maniera spesso pesante. Per quello le ho Ma detto. Non saranno i giocatori che condizionano le loro presenze future non comportandosi in maniera corretta? Non potrebbe essere così invece? Può anche essere quello, però quando si dice che più indizi fanno una prova, sempre a proposito di perplessità e dubbi, quando una squadra spesso e volentieri, non mi risulta sia la più aggressiva del campionato, e poi chiudo, ha il doppio degli ammoniti in sfide decisive dell'altra, i dubbi vengono, soprattutto perché sa... A me viene il dubbio che Randelli più dell'altra, però sinceramente non... sarà anche che siamo al Salone del Libro, sarà che ho appena visto e parlato di persona con un magistrato antimafia, no? che poi insomma si riesce a portarlo sul calcio, anche perché anche per queste persone il calcio è una il calcio è un'evasione, il calcio è un modo di passare il proprio tempo libero. Se da lì dobbiamo tornare al calcolo delle ammonizioni, sinceramente mi faccia grazia, la prego. Andrea da Biella, buongiorno. Buongiorno, da Biella, ma sto rientrando dal Salone del Libro, ho fatto una visita stamattina, sì. E quindi la saluto sapendo che è lì. Ieri ho guardato la partita, ha vinto la Lazio, mi è preso un cattivo pensiero, ma avesse vinto il Milan, Gagliani sarebbe andato in televisione a dire che è una stagione positiva, che tutto è stato salvato. Allora ho quasi il pensiero che lo Tito ci capisca di più di pallone di quello che si pensi, ecco. No, io penso che Lotito abbia tenuto correttamente un basso profilo. Sì, poi ci sono altri che sanno vendersi meglio. Lei adesso ha nominato Gagliani, che questi giorni ha i suoi guai. Certo, gli sarebbe servita come una Coppa Italia per appunto salvare una stagione o comunque per dirottare l'attenzione dal problema attuale, che è molto semplice, che lui in quest'ultimo mese era riuscito a ricucire il rapporto con Ancelotti, era riuscito insomma a convincere un po' tutti, a cominciare dal presidente, che la strada migliore, il male minore per qualcuno, oppure la strada maestra dal suo punto di vista, suo di Gagliani e di altri, era quello di continuare questo rapporto. Poi è bastato un long drink a bordo piscina e tutto è saltato per aria, e a questo punto difficilmente quei cocci sono ricomponibili. Non è un caso che da 48 ore Ancelotti, che è la persona più, come sapete, la persona più gioviale al mondo, più disponibile per i microfoni eccetera eccetera, lieviti accuratamente come se si trattasse della peste. Quindi insomma non potrà essere una combinazione. Francesco, provincia di Viterbo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, riferito al discorso delle ammunizioni, è che il calcio è la cosa più importante fra le cose meno importanti, quindi diciamo parliamone, ma finisce così. Senta, no, invece io volevo spendere 2 parole per Delio Rossi. Io già una volta ne parlai con lei, diciamo 2 anni fa, quando la Lazio vinse i preliminari di Champions League. Secondo me Dario Rossi è sottovalutato come allenatore, perché è una persona vera, un grande conoscitore di calcio e non si sa vendere come tanti altri allenatori. Ma magari non si vuole vendere, magari non si vuole vendere. Veramente secondo me quest'anno alla Lazio è successo qualcosa di strano, lui è riuscito a ricomporre tutto, ha portato la Lazio a giocare anche un bel calcio in certi frangenti, ha gestito il fenomeno Zarate che nessuno se l'aspettava. Ha fatto crescere dei giocatori, non dimentichiamo che Muslera l'anno scorso la prima partita ha preso 5 gol, quindi Dario Rossi magari non si vende bene, però quelle lacrime ieri sera, quella tensione che aveva, secondo me ha fatto vedere che cosa è il calcio per certa gente, non è diciamo così l'album delle figurine. Dario Rossi è veramente un uomo di calcio, come sì, ci sono tante altre persone. Non c'è dubbio, non è l'unico, ma è certamente un tecnico di valore e di spessore umano. Questo traspare, questo è un messaggio che passa, certamente. Dobbiamo trovare il tempo di dare la rubrica sul Giro d'Italia, però volevo sentire ancora, magari rapidamente, Enrico, che è già in linea a Torino. Buongiorno. Buongiorno Garanzini. Buongiorno. Io volevo allacciarmi un po' alla partita di ieri sera, alla sera del capitale sull'arbitro Rosetti, che secondo me ieri sera non è che è stato bene arbitrato. E poi anche i giocatori che fanno delle sceneggiate, tipo Campagnaro quando Foggia l'ha appena sfiorato, l'ha buttato per terra. Sì. Ma non so se lei condivide. Ma sì, ma sono scene di ordinaria, no? Di ordinaria non so come chiamarla, ma comunque sono talmente ormai radicate nel costume del nostro calcio che una partita più, una partita meno, di sceneggiate, appunto, di eccessi, di tutto questo che condisce e non arricchisce certamente il nostro calcio, siamo abbastanza abituati, Enrico. Allora, vi dicevo, l'appuntamento quotidiano con il Giro d'Italia, quindi dalla regia centrale di Milano, la sigla. Voci dal Giro. La voce per eccellenza, la voce del Giro d'Italia per noi di Radio 24 è quella di Pier Augusto Staggi. Sapete che c'è stata ieri una tappa che ha dato, no, non certamente dei verdetti, ma delle indicazioni comunque molto ma molto significative. Oggi se ne corre un'altra su queste caratteristiche e su come si orienterà. Sentiamo per l'appunto Staggi. Buongiorno Pier Augusto. Sì, buongiorno a tutti. Tappa che sconfina in Austria, il Giro d'Italia scatta da Bressanone per arrivare a Meerhofen. È una tappa per attaccanti, per gente che vuole recuperare, soprattutto per gente che vuole vivere una giornata di gloria. Sarà una tappa adattissima a colpi di mano, ma non per andare a intenserire gli uomini di classifica. Ricordiamo che ieri la maglia rosa è passata sulle spalle di Danilo Di Luca, grazie al secondo posto tenuto alle spalle di Denis Menchev, e terzo Longquist, che era il padrone della maglia rosa. Quarto Basso, che ora risale in classifica, una classifica generale che vede appunto Danilo Di Luca al comando con lo svedese Longquist a 5 secondi, Michael Rogers a 36, Leif Palmer a 43, Menchov a 50 e Ivan Basso sesto a 1.06. Una classifica che comincia a dire chi può vincere il Giro d'Italia e chi invece non lo può vincere. Non lo possono vincere o rischiano veramente di uscire dai giochi a tutti gli effetti. Lance Armstrong, che ormai è 3 minuti e mezzo, Damiano Cunego che anche lui ha 3 minuti e mezzo, Garzelli che ha quasi 7 minuti, per loro i giochi sono praticamente finiti. L'arrivo della tappa di oggi è previsto per le 16.30. Voci dal Giro in collaborazione con il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere il nuovo Transit Connect Turbo Diesel Common Rail a 6.500 euro sabato 16 e domenica 17. Oggi non ho la disponibilità qui a Torino dei vostri messaggi, dei vostri sms. C'è stato un piccolo problema tecnico e quindi non riesco a leggere questo. Sinceramente mi mancano, perché sapete che è una piacevole abitudine che voi scriviate queste vostre opinioni flash e che qualcuna di queste rimbalzi in trasmissione. Allora, in questi pochi secondi che ci separano dalla pausa più lunga, vorrei preannunciarvi, sempre che non ci siano intoppi, perché c'è stato un recente piccolo allarme, preannunciarvi il secondo ospite del programma, che dovrebbe essere Mauro Corona. Niente meno che Mauro Corona, e cioè un uomo di... io lo ritengo l'erede di Rigoni Stern, semplicemente, quindi un uomo di solitudine, di boschi, di cime, di arrampicate, di neve, di caratteri aspri. esatto, tutto il contrario, no? di questa specie di circo Barnum di cui ci occupiamo tutti i giorni. È una parentesi disintossicante, spero che arrivi, ve lo so dire tra qualche minuto. Torniamo in collegamento dalla Fiera del Libro di Torino nella speranza di essere raggiunti prima della fine del nostro appuntamento da Mauro Corona, anche scrittore, oltre che essere per l'appunto quest'uomo d'avventura di grande fascino e di grande mistero. Ci sono due ascoltatori collegati, abbiamo qualche voce da sentire ancora. Ripeto, sarà tutto un pochino saltabeccante oggi perché dipende dall'arrivo di questo personaggio. Riccardo in linea da Bergamo nel frattempo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Ascolti, io ho avuto la fortuna, se così la si può definire, di assistere a Milan Juventus a San Siro domenica. Sì. E in tribuna cosiddetta VIP. E mi hanno colpito Sì. E il primo è stato il fatto che i primi a non volere Ancelotti al Milan sono proprio i famosi tifosi eccellenti che lo insultano in maniera vergognosa. E poi la seconda, da tifoso juventino, a 30 secondi dalla fine, contropiede per la Juventus, Iaquinta, sono due contro due, si ferma e torna indietro col pallone come se si accontentasse del pareggio. Cioè, una cosa che da juventino effettivamente mi ha lasciato un po' perplesso. Vorrei sentire il suo parere, tutto qui. Guardi, il mio parere è intanto non da juventino e quindi... No, il mio parere è che su quel pallone, se ricordo bene, Iaquinta si è un po' allargato. E io credo non avesse più fisicamente la forza. Oh, sono riapparsi gli SMS, mi scusi se mi sono distratto un attimo, perché sinceramente senza i vostri SMS io mi sento un po' perduto per un'abitudine ormai quasi decennale. Adesso li ho di nuovo davanti grazie a Davide Ciocia, che si è scatenato ed è riuscito a organizzare anche questo collegamento, un grazie sincero. E allora la vita cambia aspetto per i prossimi 20 minuti. No, le dicevo, mi è sembrato che sul primo controllo si fosse un pochino allargato, però fosse stato un uomo fresco, sì, io non so, capirei le perplessità, ma io credo che se Iaquinta non ha fatto 40-50 scatti profondi quella sera, non ne ha fatto nessuno. Su quel campo, oltretutto, dove avrà notato, ricorderà che stare in piedi è la prima delle imprese. Io credo che sia stato molto sottovalutato domenica questo aspetto nel ritenere scadente la partita e nel ritenere la partita complessivamente, e poi nel giudicare anche alcune prestazioni. Quando un calciatore come prima opzione deve preoccuparsi del proprio equilibrio, tutto viene ritardato, tutto viene reso più complicato. Adesso che in questo villaggio globale televisivo siamo abituati a vedere i campi di Barcellona o i campi inglesi, il campo di Madrid, dove il Barcellona ha dato quella lezione di calcio 10 giorni fa, quando poi arriviamo a delle schifezze come San Siro diventa un po' più dura. Era un campo di pattinaggio domenica sera, pattinare a maggio è abbastanza fuori stagione, no? E anche quello credo che sia un aspetto di cui è stato tenuto poco conto. Mauro Mitico scrive, daghe dentro, scrive Luca D'Alegnano, ma so qua che l'aspetto, Mauro Corona, che devo fare? Se non ce la fai è perché è un ritardo. Lui ha una conferenza per una presentazione del suo ultimo libro che si chiama Storia di Neve, ce l'ha alle 17 in una sala e adesso lo sto vedendo arrivare fuori dal vetro. Allora, rapidamente i due ascoltatori già collegati. Giovanni da Genova, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica Giovanni. Senta, io mi riferisco ad un SMS che le ho inviato un'oretta fa circa. Che non ho potuto leggere. Certamente. Comunque, mi dica in sintesi. La sintesi, diciamo, si riferiva al sequestro di 20.000 tifosi sampdoriani assolutamente pacifici da parte dell'ordine pubblico romano ieri sera alla partita della Lazio-Sampdoria. Quindi io chiamo esclusivamente per abusare, diciamo, del suo sincero tam-tam, nel senso che questi 20.000 tifosi sampdoriani sono stati assolutamente mortificati nell'essere trattenuti in modo improprio per 3 ore dopo il finale della partita per permettere l'evacuazione di 70, no, forse 50.000 tifosi laziali. Sì, lo so, o meglio non lo sapevo, lo ignoravo, sono episodi spiacevolissimi legati al nostro, dipendenti dal nostro modo assolutamente tribale di vivere il calcio. Purtroppo le tifoserie esterne che si avventurano in cioè le tifoserie che ospiti che si avventurano su un altro campo devono sottostare a queste vie crucis. Gianni da Parma, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo invece parlare di calcio, o meglio, della dirigenza della Juventus. Lei potrebbe avere delle idee innovative, da giornalista competente qual è, di un dirigente che ne sa anche di pallone? E poi un'idea sul tecnico, un Rafa Benitez in Italia, meglio alla Juve? Troppo? Grazie. Troppo sì, sta a Liverpool, in questo momento credo che stia meglio a Liverpool che alla Juventus, e credo, con tutto rispetto per la Juventus, ma insomma oggi non credo che l'appeal delle nostre squadre all'estero sia forte come era in passato, sicché se uno siede sulla panchina del Liverpool ho l'impressione che sia contento così e che oltretutto se ha appena rifirmato un contratto lungo non penso che possa essere un no che possa avere altri richiami in giro. Due tecnici indubbiamente bravi ma insopportabilmente agitati in panchina, scrive un ascoltatore, quelli di ieri sera. La cosa più bella di questi anni di calcio è stata la faccia di Delio Rossi a fine partita ieri sera, scrive Michele da Grosseto. Beh, insomma, dicevo, ho ritrovato finalmente i vostri messaggi, vedo di là dal vetro Mauro Corona, ma lo vedo anche un po' spaesato e non vorrei che scappasse, ma non so chi lo può andare a prendere oltretutto per introdurlo qui, e quindi c'è un momento d'impasse. Proverei a colmarlo intanto dando spazio alla rubrica di Nicola Filippone al ripasso di Sembra Ieri. Sembra ieri. 14 maggio 1992. Il Parma si aggiudica la Coppa Italia, primo trofeo della sua storia. Allo stadio Tardini gli emiliani battono con un netto 2-0 la Juventus di Trapattoni, rimontando con le reti di Melli e Osio l'1-0 subito all'andata. Il trionfo in Coppa Italia è l'inizio di un ciclo vincente per la sorprendente formazione allenata da Nevio Scala. L'anno successivo arriverà il primo successo europeo, la Coppa delle Coppe, seguita dalla Supercoppa Europea e nel 95 dalla Coppa UEFA, ottenuta superando in finale di nuovo la Juventus. Bene, grazie a Nicola Filippone per il consueto e puntuale ripasso di storia. Ho davanti a me un signore a cui Filippo Greggi in regia ha appena fatto cenno di infilarsi una cuffia. Questo signore mi sta facendo segno che non sta sentendo molto da questa cuffia e quindi vedremo di sistemargliela successivamente. Vi dicevo che si tratta niente meno che di Mauro Corona. Allora, vediamo se riusciamo a dare una sistemata. Adesso Filippo o forse Davide, che sta intervenendo perché non sta ascoltando il nostro... Vediamo se l'audio adesso è a posto. Sì, adesso è a posto, mi sta facendo un cenno. Allora, io mi sono preparato questa piccolissima introduzione. Se amate la natura, se apprezzate la solitudine, se vi piacciono i silenzi dei boschi o delle cime, beh, allora non potete inchinarvi, non potete che inchinarvi come sto facendo io, di fronte a lui, a un signore che si chiama Mauro Corona. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oh, uno che dice di sé sono un camoscio, oppure uno che scrive di svegliarsi un giorno alpinista, un giorno scultore, un giorno scrittore e chissà cos'altro ancora. Beh, Pessoa diceva che siamo una moltitudine, uno si alza la mattina e vorrebbe fare un giro nell'orto, in quel momento è un contadino, però se deve timbrare il cartellino non può farlo. Io mi sono ritagliato questo spazio per essere quello che mi sveglio la mattina, questa moltitudine che è in ognuno di noi, in quanto a camoscio non per agilità o o per nobiltà di forme, bensì per la solitudine. Il camusso ama stare da solo, soprattutto il maschio. Chi invece nasce gatto ama dormire uno sopra l'altro. A me piace star solo, sinceramente non sopporto a volte nemmeno i miei figli vicino, ma non è un merito, è una condizione mia genetica, e quindi cerco di assecondarla. Allora, intanto io leggo questi messaggi in tempo reale e ce ne sono già di benvenuto a Mauro Corona. Scrive, adesso lo ripesco, però è dura, ne sono arrivati tantissimi. Commovente il suo fantasma di pietra, scrive un ascoltatore che si chiama Giovanni da San Zeno di Verona. Allora, io dicevo, l'ultima opera si chiama per l'appunto Storie di Neve e verrà presentata oggi qua nell'ambito del Salone del Libro. Mentre ci sta ascoltando e si appresta a rispondere, io credo che abbia già messo giù un disegno bellissimo su un foglietto di carta. Io vorrei che lo vedeste, perché è vero che qua dentro fa abbastanza caldino, ma insomma queste maniche sono molto corte. Lo zaino in spalla lei non lo abbandona mai per nessuna... No, dentro i documenti, non sono così famoso per potermene privare, mi chiedono i documenti, ho ancora la polizia, devo andare più avanti. C'è un altro Corona che è famoso, io ho bisogno ancora dei documenti. Sì, lo credo, questa non è male. Dunque, Corona è di Erto. Erto, stiamo parlando di uno dei paesi storici, purtroppo, del dramma del Vajont, eccetera, eccetera. Come, lo so che è banale, ma come si acquista una dimensione da scrittore in quelle solitudini? Cioè, cos'è? Viene voglia di raccontare agli altri un io diverso da quelli che si conoscono? Beh, innanzitutto, diceva Antonin Artaud, nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito o fatto musica se non per uscire di fatto dall'inferno. Un po' per testimoniare, un libro deve essere una scheda tecnica. Fra pochi anni quello che ho scritto io non c'è già più, già non c'è un 90%, per cui è un documento, un libro. Guai se un libro non è anche un documento, sarebbe una fatica inutile. Poi, prima di scrivere, ho letto due tir di libri, ho studiato con i Salesiani, il Don Bosco, ho fatto il liceo classico, insomma, prima di scrivere ho letto due tir di libri, allora mi sono impadronito un po', ma vagamente, di qualche tecnica, ma appunto il libro è scheda tecnica, un documento. A meno nel mio caso, fra 50 anni si saprà come sulle montagne si costruiva la slitta o la gerla, o che calo di luna bisogna usare perché un legno non bruci, ad esempio il 3 marzo, dal primo al 3 marzo il legno non brucia, per cui se devi farti la baita ricorda dal primo al 3 marzo, nemmeno con la fiamma ossidrica. Ecco, salvare questa cultura. Certo. Secondo me, scrive Carlo, Corona è il solo scrittore di montagna che sa davvero che cosa scrive. Beh, io non potrei scrivere di tennis o di suite d'albergo o di golf, devo scrivere di quello che ho vissuto, della mia vita, anche perché molti mi accusano di essere ripetitivo. Tutto è ripetitivo, diceva il maestro di Borges, Macedonio Fernandez, per cui non è il secondo autore che si macchia di plagio, bensì il primo. Anche bere il caffè è ripetitivo. Comunque, finché vendo libri, continuo a scriverli, e forse anche dopo, a maggior ragione. A maggior ragione. Senta, io della sua produzione ho molto amato Le voci del bosco. Beh, non lo rinnego, è un libro da furbetti. Ah. Però funziona, perché non sono menzogne, ma è un libro fatto per vendere. Potrei scrivere un libro sui fiori e catturare milioni di lettori con questa dolcezza, appunto perché ho scoperto che era un po' troppo dolce, cucù, c'era anche il Corona cattivo, malvagio, feroce, misogino, per questo ho scritto il libro di Neve. È un libro da furbi, Voci del Bo, però non è falso. Ma è un libro da furbetti, sapevo che calcando lì si vendeva. Che quelli come me li cuccava, in altre parole. Ma chiaramente, no, smettiamola con l'ispirazione, questo che diceva De Chirico, l'ispirazione dei dilettanti. Senta, e com'è invece questa Storia di Neve? Ma la Storia di Neve è la trilogia della morte, cioè L'ombra del bastone, Storia di Neve e Il canto delle maniere, in cui c'era una parte di me, lo dirò se mi lasciano stasera, una parte di me che non avevo mai rivelato, e quindi ero, non che la prima parte in 12 libri non sia stata vera, era una parte di me, mancava, come ho detto prima, il misogino, il cattivo, il feroce, mancava il vendicativo, e quindi nel libro di Neve, nella Storia di Neve, ho rivelato il vero Corona, che pensando quello che ho scritto lì, se uno lo pensa, lo vede, per cui potrebbe farlo. Io sono un uomo da ritirare, da segregare. Ho espresso in quel libro la parte malata di noi, la parte tenebrosa, quella che abbiamo tutti e che non diciamo mai. Quante volte abbiamo visto passare una donna, abbiamo fatto dei pensieri, però non possiamo mai dirlo. Anche feroci, anche di stupro, chi è senza peccato? È che siamo un paese di bigotti, senza palle di dire la verità. Io l'ho detto nel libro di Neve. Sbaglio di molto se dico che lei è l'erede e sarebbe un'eredità di quelle non facili da reggere. Pesante di Rigoni stesso. Ecco, vede che mi ha capito. Ero molto amico di Rigoni, molto, molto. Lo vedevo prima come un padre, un genitore, un uomo che mi consigliava. Ricordate che prima di un artista bisogna vedere l'uomo, perché anche Van Gogh, anche Picasso erano grandi artisti, però come uomini lasciavano a desiderare. Invece che Rigoni Stera era prima di tutto un uomo sì, dolce, un larice protettivo, poi era lo scrittore che era. Sì, potrei accettare questa eredità, anche che pericolosissima tra l'altro, perché scriviamo ambedue di montagna, di ciò che abbiamo vissuto. Io non ho vissuto la guerra, però lui scriveva molto meglio, era meno esibizionista di me, Rigoni Stern. Era uno scrittore vero, io tendo all'eclatanza, voglio farmi conoscere, volevo uscire da questo pantano che è stata la mia vita terribile, e quindi recito un po'. Rigoni non recitava, scriveva bene per quello. Ed era, rimane un riferimento. Quando una persona come lei in fondo vive anche di sport, perché vive di misura con se stesso, no? Di sfida a se stesso, alla natura, in certi casi al territorio. Che rapporto può avere con lo sport, con la S maiuscola in teoria, con cui noi campiamo tutti i giorni? Credo che, non so se le viene da ridere o le viene da vomitare. No, non ho capito bene la domanda. In che senso? Con la scrittura? Che rapporto ha? No, no, non con la scrittura, lo sport. Cioè, quando lei è uno sportivo per eccellenza. Sì, no, io scalo le montagne, vado a correre, mi piace per camminare nella natura, mi rilassa. Se ho scritto 14 libri è perché ho fatto fatica, e torno a casa e sono sereno, sono con le idee limpide. Le idee non si stancano facendo fatica, le idee brillano nella fatica. Mi porto sempre un quaderno, per cui mi segno delle cose, sono molto inventivo. C'è ad esempio Robert Walser, il più grande scrittore, uno che è morto nel manicomio di Rousseau il giorno di Natale, non ha scritto una parola se non camminando. Infatti il suo capolavoro, La passeggiata, camminava, e camminando gli venivano idee. A me piace muovermi, ma non per la forma fisica, perché divento meno cattivo quando torno a casa la sera stanco, morto. Sono più tollerante con la moglie, con i figli, con gli amici. E poi, sottraendo comodità con la fatica, poi apprezzi un bicchiere di vino, un panino con la mortadella. La fatica è la salute anche dell'anima. Se tutti leggessero, scrive un ascoltatore da Bergamo, l'ultimo capitolo del libro Nel legno e nella pietra, il mondo sarebbe migliore. Però me lo ricordo quel capitolo, intitolato La montagna, sì, dove uno dice quello che alla fine ho quasi 60 anni, dovrei tirare bilanci e non mi pento di niente. Io non ho mai amato i pentiti, chi se tornassi indietro fa, io farei uguale, mi è andata così e basta. Ho visto la vita come una falce, l'ho battuta, ribattuta, ho preso delle pietre, l'ho sbrecciata, l'ho ribattuta, adesso è quasi consumata, aspetto quel che accadrà. Quale di questi di questi 14 libri che lei ha ricordato di aver scritto in tutti questi anni, a quale è rimasto più affezionato? Sono affezionato non per la forma letteraria, io sono uno che racconta storie, non un letterato, proprio uno. Sono affezionato ai Fantasmi di pietra, che è la storia di un paese che ha 2000 anni di storia. Prima era una casa di paglia, di montanari, di prigionieri della Serenissima mandati lassù, poi hanno costruito questo paese con tutto questo uso, e adesso dopo il Vajont, dopo la rasoiata del Vajont, l'incuria prima dei paesani e poi dello Stato lascia cadere questo pezzo di archeologia, di architettura archeologica di mille anni, perché casa dopo casa sta crollando. Io ho immaginato un percorso nelle quattro stagioni, ogni casa mi racconta qualcosa, è un grido d'aiuto, i fantasmi di pietra. Si potrebbe fare in questo paese, non so, un enorme campus, un'università per geologia, scienze forestali, scienze naturali, botanica, regalarlo agli studenti, tenerlo in piedi, ma è protetto dalle belle arti e lo lasciano crollare. Questa è l'italiota mediocre che abbiamo. Non mi riferisco a questo governo, anche prima, dopo, in qua, in là, di destra, sinistra, in alto, in basso, blu, azzurri. Non hanno idee, non sono cattivi, non hanno idee. Corona è come i suoi libri, aspro e dolce, scrive in diretta Enrico da Bergamo. Glielo dica e lo ringrazi di scrivere. Lo ringrazio anche di essere stato qua con noi, così come ringrazio Filippo Aureggi in regia, Davide Ciocia per l'intervento decisivo, Elena Ligios. Ringrazio, ripeto, ancora il magistrato Raffaele Cantone, che è venuto a trovarci prima a raccontarci la sua vita sotto scorta, narrata in Solo per Giustizia, Strade Blu di Mondadori. È un autore Mondadori anche Mauro Corona, in libreria il suo ultimo libro Storie di Neve, che verrà ripresentato oggi pomeriggio alla Fiera del Libro, da cui vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto.